Salve cari amici di Radio Big World, anche oggi continuiamo la nostra rubrica di mescolare acqua e vino. Oggi nel nostro shaker per mescolare mettiamo due cose che riguardano tutti gli esseri umani, la nascita e la morte. Shakeriamo a lungo, ne esce la vita di ciascuno di noi. Nell'universo in cui noi viviamo tutto ha un inizio e una fine. Solo l'energia non nasce e non muore. Tutto ha un inizio e una fine perché il sole, la terra, le stelle prima erano altro. Oggi sono quello che noi constatiamo. Anche sulla Terra tutto ha un inizio e una fine. Dove oggi c'è eredità scorrevano dei fiumi grandiosi sulla Terra. Dove oggi ci sono le montagne c'erano delle pianure e forse il mare. Si trovano le conchiglie in cima alle montagne. Dove c'erano le montagne, oggi ci sono delle grandi pianure perché il tempo ha mangiato le montagne e sono diventate piatte. L'albero che vicino a noi ieri non c'era, oggi si erge maestoso. Domani cadrà e diventerà polvere. Siamo in una situazione in cui tutto quello che è materia continuamente si evolve. Vi racconto un aneddoto perché intendo parlare della morte e questo aneddoto ci instrada sull'idea della morte. Il grande filosofo greco Anassagora aveva diversi figli. Uno era andato in guerra a combattere e morì. Quando gli annunciarono che suo figlio che era andato in guerra a combattere era morto, rispose con una semplicità allarmante: «Sapevo che mio figlio era mortale». No, non andiamo a cercare le emozioni. Però ha detto una cosa così banale, così ovvia, e noi non pensiamo mai. Siamo mortali, siamo nati nella shakerata che abbiamo fatto inizialmente e finiremo. Si può creare un'immagine, fare un esempio. Noi saliamo su un bus al momento della nascita. Dentro ci stiamo tutta la vita, facciamo cose gradevoli, un po' meno gradevoli, incontriamo persone con cui abbiamo un buon rapporto, altre che vorremmo non aver mai incontrato, e poi bus cammina e la vita passa. All'ultima fermata il nostro corpo viene depositato fuori del bus, qualcun altro se ne prende cura. E noi che continuiamo a esistere perché siamo una scintilla di energia dell'universo e l'energia continua a esistere e noi continuiamo il nostro cammino. La morte quindi è la separazione tra il corpo fisico e noi, la nostra energia, la nostra scintilla. Ma la morte coinvolge la persona che abbandona il suo corpo e tutte quelle persone che durante la vita terrena gli sono stati vicino. Per quanto riguarda la persona che abbandona il suo corpo, come sappiamo tutti, ci sono due grandi linee di indirizzo di quello che avverrà a questa scintilla. C'è il mondo del cristianesimo che parla di un premio eterno. Al momento che non avremo più il nostro corpo, ci troveremo in una situazione eterna. Ci sono anche altre visioni del dopo la morte. Per esempio, il libro tibetano dei morti, che è un testo dell'Oriente collegato al buddismo o altri modi di concepire la vita, vede invece che al momento della separazione del corpo e della scintilla di energia, che siamo quelli realmente noi, si intraprende un nuovo itinerario. Tra alterne vicende faremo nuove esperienze fuori dal corpo e poi avverrà che la nostra scintilla, noi, cercheremo di nuovo di incarnarci. E questa è l'idea fondamentale della reincarnazione, cioè nel cristianesimo la scintilla ha un destino eterno, nel libro tibetano dei morti la scintilla ha altre esperienze fuori dal corpo e nuove esperienze all'interno del corpo. Questo per quanto riguarda la scintilla, noi. Poi la morte tocca anche quelli che noi, che siamo la scintilla, quelli che noi amavamo, quelli con cui avevamo una relazione continua, quelli con cui facevamo il percorso della vita assieme. E quando ci rendiamo conto che avviene questo distacco, come tutti i distacchi proviamo dolore. Pensiamo a tanti tipi di distacchi o cambiamenti ci sono stati nella nostra vita. Per esempio, il periodo subito dopo aver cambiato abitazione, casa, è disagevole. Poi tutto passa, però il primo periodo è disagevole. Quando si ritorna a scuola o al lavoro dopo le ferie è disagevole perché c'è un cambiamento. Quando finisce una lunga storia ad un amore c'è disagio perché c'è il cambiamento. Anch'io sto vivendo in questo periodo il disagio del cambiamento per una morte. Quella persona con cui avevo una gradevole relazione umana, prendevamo il caffè insieme, facevamo le nostre chiacchiere, ci ritrovavamo per una pizza, non la vedrò più, non esiste più quel corpo, è avvenuta una cosa che non si può modificare. È un cambiamento forte. Perché fino a ieri c'era, oggi non c'è più. È inutile che io immagini che forse è... No, io è sicuro, continuerò a soffrire ancora. Però la natura umana ha messo dei tamponi alla sofferenza. Perché altrimenti la vita in dei momenti sarebbe invivibile. Pensate per esempio al dolore, no? Se noi abbiamo un piccolo dolore, si prende qualche medicina, qualche piccola cura, oppure non si fa niente, ma dopo qualche giorno passa. Se invece abbiamo un grande dolore, parlo di dolore fisico, se invece abbiamo un grande dolore, la natura umana ha creato il corpo in maniera che, superati certi limiti che noi si definiscono limiti di sopportazione, il dolore non si sente più. Cioè, il dolore per un po' di tempo, per una gradazione accettabile, ci colpisce. Poi il corpo umano non lo percepisce più. Lo stesso avviene nel campo emotivo. Un dolore di una separazione, come dicevamo prima, di un affetto interrotto, col tempo piano piano si attenuano e si spengono e si continua a vivere. Perché si attenuano e si spengono? Perché la psiche umana, e questo che sto per dire è comune a tutti a tutte le dottrine psicologiche, la psiche umana in un periodo di circa 30 giorni riesce a creare un'abitudine. Se voi per 30 giorni, quando uscite di casa, fate sempre lo stesso percorso per andare al bar, a lavorare, alla scuola, dopo 30 giorni circa non sarete più in grado di prendere una strada diversa per andare al bar, a scuola o a lavorare, perché la nostra psiche si è adattata a quell'itinerario, ha memorizzato quell'itinerario, e quello faremo. Questo non vuol dire che se scommettiamo di passare per un'altra strada non ci riusciamo, no, ma seguendo l'abitudinarietà noi sicuramente faremo quel solito tracciato che abbiamo fatto per 30 giorni. Allora, anche quando la morte colpisce e si soffre, parlo di chi resta, la memoria dopo 30 giorni fortunatamente dimentica quelle esperienze che non si stanno facendo più. Io non vado più a prendere il caffè, non vado più a fare due chiacchiere. La memoria dimentica e crea un altro itinerario, un altro legame nuovo con la realtà fisica in cui vivo. Allora, anche in questo caso, la natura è stata così brava che, anche se la morte, una cosa che non ci piace, ci è passata vicino, la natura c'ha un rimedio, e è che facciamo nuove esperienze e dimentichiamo quelle vecchie. Per questo, anche dopo la morte, la vita continua. E bisogna che sia così, altrimenti non esisteremmo più. Ciao.